e noce 9. Allora Michele, Gabriele, Suriel e Uriele guardarono dal cielo e videro il molto sangue che scorreva sulla terra e tutta l'iniquità che si faceva sulla terra. E si dissero fra loro, la terra, nuda, ha gridato la voce dei loro clamori fino alla porta del cielo. Ed ora, dunque, o santi del cielo, le anime degli uomini vi implorano dicendo: portate il nostro caso innanzi all'Altissimo. E dissero al loro Signore, al Re, poiché sei, Signore dei Signori, Re dei Re, Dio degli Dei, poiché il trono della tua gloria è eterno ed il tuo nome è santo e glorioso in eterno, poiché tu sei benedetto e glorioso, poiché hai fatto tutto ed il potere di ogni cosa è con te e tutto, innanzi a te, è chiaro e manifesto, poiché vedi tutto e non vi è alcuna cosa che ti si possa nascondere, vedi, allora, quel che ha fatto Azazel, come egli ha insegnato tutte le pravità sulla terra ed ha reso manifesti i segreti del mondo che si compiono nei cieli e, vedi come, Semeiazza, cui tu desti il potere di dominare su quelli che erano insieme con lui, ha insegnato gli incantesimi e, vedi come, andarono dalle figlie degli uomini, insieme, giacquero con loro, con quelle donne, si resero impuri e resero manifesti, ad esse, questi peccati, e, vedi come, le donne generarono i giganti e, perciò, tutta la terra si riempì di sangue e di pravità. Ed ora, ecco, le anime dei morti gridano ed implorano fino alla porta del cielo, il loro lamento è salito e non possono uscire da davanti alla cattiveria che si compie sulla terra. Tu sai tutto, prima che sia. Tu conosci ciò e quel che loro accade e non ci dici nulla. E che cosa conviene che noi, a riguardo di ciò, facciamo per loro? Enoch 10. Allora l'Altissimo, grande e santo, parlò ed inviò Arsè a Leor dal figlio di Lamech e gli disse: digli, a nome mio, di nascondersi e manifestargli la fine che verrà poiché la terra, tutta, perirà, un diluvio verrà su tutta la terra e quel che è in essa perirà. Avvisalo che fugga e resti, il suo seme, per tutta la terra. E il Signore, poi, disse a Raffaele, lega Azazel mani e piedi e ponilo nella tenebra, spalanca il deserto che è in Duda e le ponilo colà. E ponigli sopra pietre tonde ed aguzze e coprilo di tenebra. E stia colà in eterno e coprigli il viso a che non veda la luce. E nel grande giorno del giudizio, si è mandato al fuoco. E fa vivere la terra che gli angeli hanno corrotto e, quanto alla vita della terra, annunzia che io farò vivere la terra e che non tutti i figli dell'uomo periranno a causa del segreto di tutto quel che gli angeli vigilanti hanno distrutto ed insegnato ai loro figli. E tutta la terra si è corrotta per aver appreso le opere di Azazel ed ascrivi a lui tutto il peccato. E il Signore disse a Gabriele, va contro i bastardi e i reprobi e contro i figli di Meretrice. Distruggi, di fra gli uomini, i figli di Meretrice e i figli degli angeli vigilanti. Falli uscire e mandali l'uno con l'altro. Essi stessi, poiché non hanno lunghezza di tempo, periranno per scambievole uccisione. E tutti loro ti pregheranno e non riuscirà ai loro padri, poiché, per loro, i padri, sperano la vita eterna che ognuno di loro viva 500 stagioni di pioggia. E il Signore disse a Michele, annunzia a Semeiazza ed agli altri che, insieme con lui, si unirono con le donne per corrompersi, con esse, in tutta la loro impurità, quando tutti i loro figli si trafiggeranno a vicenda, e quando vedranno la distruzione dei loro cari, legali per 70 generazioni sotto le colline della terra, fino al giorno del loro giudizio e della loro consumazione, finché il giudizio che è nei secoli dei secoli sia stato consumato. E allora li porteranno nell'inferno di fuoco e saranno chiusi, per l'eternità, in tormenti e in carcere. E quando brucerà e si estinguerà, da allora, insieme con loro, essi saranno legati fino alla fine delle generazioni. E distruggi tutte le anime del piacere e i figli degli angeli vigilanti perché hanno fatto violenza agli uomini. disperdi, dalla faccia della terra, tutta la violenza e finisca ogni cattiva azione ed appaia la pianta della giustizia e della rettitudine, e le azioni saranno, rivolte, al bene. Giustizia e rettitudine saranno, per l'eternità, piantate in Letizia. Ed allora tutti i giusti lauderanno il Signore, e saranno vivi fino a che genereranno mille e compiranno in pace tutto il tempo della loro giovinezza e di loro sabati. E in quei tempi tutta la terra sarà lavorata nella giustizia e sarà tutta quanta piantata di alberi e si riempirà di benedizione. E pianteranno su di essa tutti gli alberi di Letizia e vi pianteranno sopra le viti e la vite piantatavi sopra darà frutti in abbondanza. E, di, tutto il seme che vi sarà seminato, una misura ne darà mille ed una misura di olive farà 10 torchi di olio. E tu monda la terra da ogni violenza, da ogni iniquità, da ogni peccato, da ogni turpitudine che si fa su di essa. Falle finire da sopra la terra. E tutti i figli degli uomini siano giusti e tutte le genti mi adorino e mi venerino, e tutti mi si prostreranno. E la terra sarà monda da ogni impurità, peccato, flagello, tormento e non si ripeterà che io debba mandare su di essa un diluvio, nei secoli. Enoch 11. Ed allora io aprirò gli scrigni di benedizioni che sono nei cieli per farle scendere sulla terra, sulle opere e sulle fatiche dei figli dell'uomo. Pace e rettitudine saranno, riunite in tutti i giorni del mondo e per tutte le generazioni del mondo. Enoch slavo 1. Nel Signore benedici, o maestro. Uomo saggio, grande scriba che il Signore ha accolto per essere spettatore della vita dell'Alto e del Sapientissimo, grande, immutabile e onnipotente regno di Dio, del Grandissimo, dai molti occhi e immobile trono del Signore, della luminosissima schiera dei servi che sta, davanti, al Signore e degli ordini potenti, nati dal fuoco, delle milizie celesti ed un indicibile complesso di una grande moltitudine di elementi e di una visione varia, ed un canto ineffabile delle milizie dei cherubini e per essere lo spettatore di una luce senza misura. In quel tempo, disse Enoch, quando ebbi compiuto 365 anni, nel primo mese, nel giorno solenni del primo mese, ero solo nella mia casa, piangevo e mi affliggevo con i miei occhi. Mentre riposavo nel mio letto dormendo, mi apparvero due uomini grandissimi come mai ne avevo visti sulla terra. Il loro viso, era, come sole che luce, i loro occhi come lampade ardenti, dalle loro bocche usciva un fuoco, i loro vestiti una diffusione di piume, e le loro braccia come ali d'oro, al capezzale del mio letto.